Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Andrea Romeo di I Wonder Pictures per parlare della programmazione settimanale di I Wonderful con tre titoli italiani. Andrea, ben trovato. Ben trovati a voi, spero stiate tutti bene, immagino tutti molto, molto casalinghi, e quindi I Wonderful è nata anche in questo momento con l'idea di riuscire a vedere del buon cinema contemporaneamente, settimana per settimana, con una programmazione che ci faccia in qualche modo sentire un po' più vicini come spettatori normali delle sale cinematografiche. Quando è partito il progetto? Abbiamo inaugurato il 26 dicembre con Werner Herzog, che si è prestato generosamente a presentare il suo Family Romance LLC, che è stato, diciamo, il primo film sulla piattaforma. È molto bello il fatto che, per esempio, con tutti i registi realizziamo delle conversazioni, degli extended Q&A, come si dice in America, sui loro film, in cui andiamo abbastanza in profondità. Sono una sorta di masterclass che loro fanno raccontando anche il making del loro film, e questi extended Q&A vengono scelti da tantissimi, anche a prescindere dalla visione del film, e quindi stanno avendo un successo che non ci aspettavamo. E chiaramente poi nel caso di Herzog si tratta di un grande maestro, ma questa settimana incontriamo degli autori italiani molto interessanti come Federica Di Giacomo, come Roberto Minervini, per esempio, che l'America di questi giorni l'ha raccontata negli ultimi 10 anni molte volte. Raccontaci anche di questo accostamento di questi tre autori. Abbiamo deciso di dedicare questa settimana all'Italia e ad alcune eccellenze italiane che amiamo molto. Federica Di Giacomo presenta il film con cui aveva vinto Orizzonti, il suo Liberami, una sorta di commedia, documentario commedia, anche a tratti, come dire, drammatico, sul malessere che porta molte persone nelle canoniche dei preti esorcisti a rantolare per terra, a sputare, a dire cose molto volgari per via di una possessione, di un malessere che li attanaglia, a cui cercano ristoro nel dialogo con la Chiesa e con i preti esorcisti. Ancora Stop the Funding Hard di Roberto Minervini ci porta in un altro malessere, quello della grande, grande provincia americana del Midwest, degli Stati del Sud, e il suo meraviglioso Stop the Funding Hard è un film che aiuta a capire quello che è successo a Capitol Hill l'altra settimana e che aiuta a capire la spaccatura dell'America. Inizia con questi bambini in altalena che sventolano una bandiera degli Stati Confederati. Già di per sé una bandiera sudista è un gesto molto, molto forte in un paese in cui ancora ci sono croci del Ku Klux Klan che bruciano, in cui c'è non solo un tema di razzismo, ma un tema di marginalità e di emarginazione molto forte, anche e soprattutto fuori dalle grandi città. E poi un terzo autore che amiamo molto, vincitore a Venezia con il suo Anna, per il ruolo straordinario di Charlotte Rampling, protagonista del film, Andrea Pallauro, anche lui ormai americano, vive a Los Angeles da molti anni, ci racconta la colpa e il dolore per una colpa che non si può espiare, che non può essere lavata, il rapporto di Anna con una colpa che peraltro non è sua ma è del marito, che viene consegnata ai servizi carcerari, e la famiglia che non vuole più vederla, e il suo isolamento, la sua difficoltà di continuare a vivere e anche la sua inevitabile necessità di continuare a vivere. Un film meraviglioso che è bellissimo vedere su un grande schermo, ma che sono certo sarà comunque molto molto importante e anche intimo vedere sulla piattaforma I Wonderful. Nell'incertezza del futuro prossimo, con quale prospettiva vi state muovendo, Andrea? Ogni settimana un passo alla volta, molte sorprese. Ci saranno grandi sorprese, ci sarà un grande film sul giornalismo che ha appena vinto l'EFA, gli Oscar europei, che è Collective, che arriva tra qualche settimana sulla piattaforma. La settimana prossima, il 20 di gennaio, seguiremo in diretta anche con Armando Iannucci, autore di Morto Stalin se ne fa un altro, ed altri amici, l'inauguration di Biden da Washington, e sarà una settimana tutta sui presidenti e sul potere. Non ti anticipo altro, ma insomma ogni settimana un tema, ogni settimana tre nuovi film e poi il catalogo I Wonder, che a noi piace e che è ricco di storie che ci piace raccontare. La programmazione settimanale di I Wonderful con tre titoli italiani. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Romeo di I Wonder Pictures. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima, Andrea. Grazie a voi, buone visioni, vi aspettiamo su iwonderful.com. Con Emanuela Martini per presentare la rassegna di Cineforum, rivista di cinema, ricomincio da 5. 5 titoli dal catalogo Lab 80 Film, in streaming dall'11 al 20 gennaio 2021. Emanuela, ben trovata. Buongiorno, praticamente hai già detto tutte le cose fondamentali tu. Però potremmo partire da Cineforum. Partiamo da Cineforum, sì, perché è tutto collegato in realtà. Cioè, Cineforum cartaceo, rivista di carta che ha quasi una sessantina d'anni, che non sono pochi, ed è praticamente rimasta una delle poche riviste cartacee di cinema ancora esistenti in Italia, riviste che meditano anche un pochino sul cinema, senza essere accademiche, pesanti, eccetera, però ci ragionano sopra. Durante questo periodo di lockdown abbiamo discusso, ci abbiamo lavorato sopra e abbiamo cambiato una cosa, cioè, questo anche per problemi economici che abbiamo tutti in questo periodo, e comunque il cinema in generale anche prima del Covid. È diventata trimestrale. Il numero zero è uscito prima di Natale, in dicembre, poi il suo arrivo nelle librerie o nelle case degli abbonati è ovviamente legato all'andamento delle poste, che sotto Natale sono sempre abbastanza un problema, e il prossimo numero, cioè il numero uno, uscirà in marzo. Quindi sulla rivista, che è diventata appunto più un momento di riflessione su quello che accade però sostanzialmente nel contemporaneo, oggi nel cinema, quindi ci sono ancora lunghe recensioni di film che siano in uscita quasi contemporaneamente all'uscita della rivista, in uscita ovviamente a suo punto intendo sia sala che ovviamente streaming, e comunque di fenomeni, di problemi, di cose legate al cinema. Mentre Chiacchiera è in costante relazione con il sito cineforum.it, dove invece vanno le cose di attualità stretta, cioè le recensioni dei film che escono, alcune serie, e il sito lo stiamo risistemando in questo momento, comunque l'attualità è già contenuta. E tra tutte le altre iniziative che partono appunto attraverso il sito, abbiamo deciso di lanciare anche due cose, ci proviamo. Una sono i corsi di cinema, che purtroppo quest'anno di Covid tutti si sono spostati sull'online, non potendo più essere fatti in presenza. Il primo è già stato fatto e si intitola Cineaste di tutti i tempi ed è su autori contemporanei. Il primo è stato fatto sabato e domenica scorso da Roberto Manassero su Scorsese. Il prossimo sarà sabato e domenica 23-24 di questo mese e lo farò io su Tutte le ragazze di Quentin, si intitola, cioè su Quentin Tarantino, in particolare i personaggi femminili di Tarantino, ma non solo quelli ovviamente. E poi ne seguiranno altri due saranno in febbraio, eccetera. E oltre ai corsi tentiamo di fare anche i film streaming, i film online. E ricomincio da 5, è questo. Un pacchetto di 5 film che sono attualmente in distribuzione alla Lab 80 Film, tutti molto recenti, che ci raccontano un po' che cosa fanno i giovani registi contemporanei. Questa è l'idea del corso. Vi dico anche il costo. Si può fare un combo, cioè abbonamento a tutti e 5 film a 9,99 euro per tutti i titoli, oppure i singoli titoli, per chi ne abbia già visti alcuni, sono acquistabili a 3,99. E collegati ai film ci sono anche le introduzioni, le interviste ai registi che abbiamo fatte appositamente con alcuni dei collaboratori di Cineforum, le presentazioni dei film, ovviamente le schede film scritte, ma anche interviste ai registi e brevi presentazioni dei film. Tra i 5 c'è incluso Non dimenticarmi di Ram Nehari. Che ha vinto il Torino Film Festival, infatti, Don't Forget Me. Molto interessante. Vinse il Torino Film Festival nel 2017, era un film molto curioso perché in realtà è una commedia ed è un film molto tenero, molto semplice, vinse un po' a sorpresa. E anche con delle belle prove d'attori, eh? Sì, ci sono due ragazzi molto giovani che cioè una coppia, due ragazzi, un ragazzo e una ragazza che hanno problemi entrambi, che si incontrano. È una storia abbastanza anomala, stilisticamente abbastanza anomala, perché è trattata appunto in maniera molto semplice, con toni da commedia nonostante le loro situazioni siano drammaticissime, e prese un po' di sorpresa anche la giuria del festival, che infatti gli diede il primo premio, e secondo me a naso direi che forse hanno vinto anche due interpreti, fece veramente una collezione di premi. E comunque gli altri sono Andrei Tarkovsky, Il cinema come preghiera, che è il film del 2019 girato dal figlio Tarkovsky, che era stato nel 19 alla Mostra di Venezia. E ripercorre anche i luoghi amati da Tarkovsky. Sì, esatto, esatto. Diciamo che è un film tarkovskiano, ovviamente, abbastanza ovviamente. Poi La casa dell'amore di Luca Ferri, che invece è stato presentato al Forum di Berlino nel 2020, e gli altri sono entrambi stati presentati a Torino. Uno è Star Staff di Milad Tanjir, che è stato presentato fuori concorso nel 2019 al Torino Film Festival, che è un film sull'osservatorio. In realtà è un film magnifico su grande schermo, ovviamente, perché è su un osservatorio, anche su quello che si vede da un osservatorio astronomico. È molto poetico ed è molto curioso, molto interessante. E poi Dei, di Anahita Gazdinizadeh, scusate, faccio una fatica terribile a pronunciare il nome di questa signora, che era alla selezione del Setere Gar nel 2017, del Festival di Cannes nel 2017, e poi lo stesso anno fu anche in concorso al Torino Film Festival. Questo è un classico coming of age, c'è un ragazzino o ragazzina che cresce. Sono cinque approcci diversi di cinque giovani cineasti diversi, cioè mettono abbastanza a confronto come si muove il cinema giovane, il cinema degli esordienti o quasi esordienti in questo momento. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web nuovamente? Per acquistare il pacchetto o i singoli film dovete andare su cineforum.it e cliccate, c'è il logone Ricomincio da 5. Andate sotto News, se non vi si apre immediatamente il logo Ricomincio da 5, trovate il logone Ricomincio da 5 e seguite tutte quante le istruzioni. E la stessa cosa per i corsi cineasti di tutti i tempi, anche lì stessa cosa. E anche se volete proprio abbonarvi o acquistare Cineforum cartaceo, anche lì trovate la copertina del numero 0 di Cineforum, che è una magnifica foto di Marenis Black Bottom. Cliccate lì e trovate tutte le istruzioni, o per abbonarvi o per acquistare i singoli numeri, anche l'indicazione delle librerie nei quali in teoria forse si riesce già a trovarli in vendita, dipende dalla funzionalità delle Poste Italiane. Ricomincio da 5, 5 titoli dal catalogo Lab 80 Film, rassegna di Cineforum, rivista di cinema. Un saluto e un ringraziamento a Manuela Martini. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Con Mario Sesti, il curatore di Siamo Serie, guida ai tesori nascosti dello streaming. Mario, ben trovato e auguri. Auguri anche a voi, anche a te. Ci racconti di questo progetto? Una delle situazioni più tipiche che credo, insieme a tutto il resto, tutti quanti hanno dovuto affrontare, stando spesso a casa di fronte allo schermo televisivo, è il fatto che di fronte alle piattaforme dello streaming e alla loro ricca e generosa offerta si passa più tempo a cercare di capire cosa vedere che non a vedere qualcosa. Un po' come in quei supermercati americani, dove a un certo punto si capita in quei corridoi in cui ci sono tante varietà della stessa cosa, non si riesce a sapere qual è quella che una dovrebbe scegliere, e uno esce un po' come stordito, no? Allora, un po' anche sul modello di quello che ho visto fare, per esempio, su siti in lingua inglese molto importanti come Rotten Tomatoes o anche IndieWire, ho iniziato a studiare questa rubrica, il cui fine fondamentalmente è di, appunto, pescare quelle che vengono chiamate le hidden gems, cioè i tesori nascosti, che sono al di là delle mille finestre che si aprono su Netflix, su Amazon, o su Sky, o su tutte le altre, diciamo così, piattaforme che abbiamo a disposizione. Perché poi, se uno va magari a fare una ricerca alfabetica, trova tante di quelle cose che sono forse ancora più interessanti di quelli che la Homepage ci offre. Così con Massimo Sebastiani, che è il capo redattore centrale e il responsabile del servizio online e della pagina dell'ANSA, abbiamo messo a punto questa rubrica settimanale che viene pubblicata più o meno tra venerdì e sabato, comunque all'inizio del weekend, che si chiama Siamo Serie, qui dai tesori nascosti dello streaming. La cosa che mi piace molto come titolo, perché questo non solo mi dà la possibilità di segnalare le serie che sono naturalmente il prodotto principe del consumo dello streaming, ma anche film che ormai sono diventati, purtroppo, diciamo, a causa del lockdown, la chiusura di cinema, anche una anteprima, diciamo, molto appetitosa sulle piattaforme. Ma anche, per esempio, parlo di Rai Play, dove c'è un patrimonio, una library per certi versi di cui noi conosciamo solo la punta dell'iceberg, ma che consente un'esplorazione dove ci sono materiali di repertorio, ma anche documentari, ma anche trasmissioni storiche. Insomma, l'idea di cercare di allargare il più possibile a 360 gradi le possibilità che lo streaming in quanto tale ci offre come spettatori. Fin dall'inizio quanti lavori hai attenzionato? Siamo alla 24-25esima puntata, calcola che ne segnalo tra i 3 e i 4 a episodio, quindi siamo intorno ormai quasi al centinaio o poco più. Tenete presente che questo è un lavoro che in realtà io ho iniziato a fare con un collega che ogni anno faceva un volume dedicato al cinema, in cui negli ultimi 10 anni mi chiedono spesso di fare le migliori serie dell'anno, quindi diciamo molto materiale accumulato, perché mi riferisco, la cosa più interessante sono lo streaming, è anche la sua eternità, no? Cioè ci sono anche serie che magari sono uscite all'inizio degli anni 2000 che hanno avuto il loro perché, per non parlare per appunto, non so, di documentari storici, per appunto come ho detto della Rai, roba fatta da soldati che sono però bellissimi e che quindi ti consentono di poter segnalare degli oggetti di grande qualità culturale, come se fosse una biblioteca immensa, diciamo. Non conta più semplicemente l'offerta commerciale del dettaglio, no? Che cambia in costruzione la vetrina, no? Che anche nel cinema in fondo è soggetta comunque ad una sua provvisorietà, i film ormai durano pochi giorni o poche settimane, no? La forza dello streaming è anche quella di stare lì in qualche maniera in questa specie di firmamento sterminato di oggetti da vedere, che possono essere di molte ore oppure di pochi minuti, come ad esempio dei bellissimi corti su YouTube, perché alcuni premi Oscar che abbiamo avuto un po' di segnalare, e quindi dal mio punto di vista di uno che fa il critico cinematografico, che ha iniziato facendo questo mestiere fondamentalmente facendo recensioni solo di film che era possibile vedere un weekend, dà un'ampiezza, uno scopo, diciamo così, un'escursione, uno spettro di possibilità di discorso quasi infinito, naturalmente. Quindi andiamo naturalmente dalla grande attualità, non so, per esempio l'Isola delle Rose oppure Sampa, di cui adesso parlano tutti, ma spesso metto dentro anche dei evergreen che possono essere Desperate Housewives, naturalmente, oppure naturalmente, che posso dirti, anche naturalmente i classici tipo Soprano, come credo sarà capitato anche a te, no? La forza anche delle serie è questa onda lunga, infinita, no? C'è gente che ancora vedono su Facebook che ha scoperto da poco Breaking Bad, no? Che ormai, voglio dire, è il classico dei classici. E questa è una forza enorme, no? Che il cinema alla fine non ha mai potuto avere, perché poi il cinema è sempre stato un oggetto volatile che ha avuto la possibilità di concedere l'accesso ai film in una durata limitata, in un determinato posto, per un determinato pubblico. Questo credo che sia uno strumento a vantaggio di chi fa il lavoro che facciamo un po' io e te, che è quello di segnalare cose che amiamo e condividere con il maggior numero di persone possibili. Immagino tu abbia fatto anche delle scoperte sorprendenti. Beh sì, naturalmente, proprio perché il taglio è un po' quello di cercare di frugare nella cenere per trovare dei minerali preziosi, non tanto quello di esplorare il firmamento delle stelle più visibili, perché la roba non si segnala da sola, insomma, in qualche maniera, però naturalmente è capitato di trovare delle cose a mio punto di vista notevoli, che non ho mai visto né al cinema né sulla TV via cavo, né tantomeno nei festival, per esempio, no? L'altra grande forza dello streaming è la sua internazionalità, il fatto che effettivamente accedono fondamentalmente un prodotto mondiale, ci sono dei bellissimi anime asiatici, naturalmente, ci sono delle serie giapponesi molto belle, ecco, hai l'impressione effettivamente che se uno ha il coraggio, diciamo così, di tuffarsi in quell'abisso, poi andando un po' a strascico, che però è anche, secondo me, una cosa bella del cinefilo, quello che faceva il cinefilo una volta, cioè andare al cinema e incontrare i film, magari ci rendono pochissimo, con la speranza poi di essere colpito da qualcosa che neanche sai che cos'è, no? Ma voglio proprio un aspetto un po' bulimico, che è tipico del cinefilo, almeno quello storico che si è formato, diciamo, nel dopoguerra, alla fine degli anni 50, che comunque i film, anche quelli brutti oppure non nobili, comunque hanno sempre qualcosa di interessante, magari in una sequenza, in un attore, in un titolo, in uno stile di illuminazione, in un risvolto di sceneggiatura. Questa cosa qui, secondo me, applicata all'universo sterminato dello streaming, può darti, diciamo così, un metodo di navigazione molto fruttuoso, fondamentalmente. Tra l'altro è simpatico anche questo omaggio al genere femminile del titolo, Siamo Serie. Sì, l'idea è anche che poi la grande espansione produttiva delle serie consenta anche un'esplorazione molto meno limitata dal punto di vista degli stereotipi di genere, di personaggi, di racconti. Penso che sempre alla regia degli scacchi, no? Per esempio, Ethos, Big Little Lies, dove evidentemente la composizione stessa, diciamo così, dell'ambiente in cui tutto questo viene vissuto, in qualche maniera stempera, diciamo, il dominio tradizionale sul mercato di certa limitazione, per dire un po' meno solenne e patriarcale dei contenuti. Quali sono i riferimenti web per saperne di più? Fondamentalmente c'è appunto questa rubrica Siamo Serie Paianza, che si trova in tutte le sue puntate su ansa.it. C'è anche un canale YouTube Siamo Serie Paianza, dove ci sono tutte le puntate. C'è anche una pagina Facebook Siamo Serie Paianza, e poi c'è anche il mio sito, quello specializzato sul cinema, che si chiama Mario Sesti Film Page di Pioli, dove vengono pubblicati anche i testi scritti e non solo l'audio e le immagini di questa rubrica, che è, appunto, è un video che appunto è cresciuto, appunto, che nelle ultime settimane spesso risulta il primo video di spettacolo della settimana della pagina di spettacolo dell'ANSA, appunto. Siamo Serie, guida ai tesori nascosti dello streaming. Un saluto e un ringraziamento al curatore Mario Sesti. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto, Mario. Grazie Federico, un abbraccio anche a te e a presto. Con Olimpia Bonecchi dell'associazione MACMA per presentare il Festival Abbecedario del Reale, online dal 28 novembre 2020 al 16 gennaio 2021. Olimpia, ben trovata. Ciao, grazie. Ci racconti? Abbecedario è la prima esperienza di festival online di MACMA. Abbiamo deciso di fondere le nostre progettualità principali, che sono Sguardi sul Reale Festival e la Rassegna Cinema 9 e mezzo, in una cosa totalmente nuova sul web, appunto date la situazione attuale di impossibilità di usare gli spazi fisici. Abbecedario è una rassegna strutturata sulle parole, appunto, Abbecedario del Reale, quindi parole per analizzare, conoscere e indagare la realtà. Ogni parola è un contenitore di film, di interventi di ospiti, di autori, di presentazioni di libri, di progetti musicali. E appunto è iniziata il 28 novembre, ogni fine settimana escono delle parole, vi invitiamo a scoprirlo tutto su lefornaci.org. Come mai questa scelta multidisciplinare? Perché rispecchia un po' la natura del lavoro, della progettualità, della ricerca di MACMA, che è quella di fondere differenti linguaggi artistici per indagare e raccontare il reale. Quindi da sempre, sia negli eventi che nelle nostre produzioni audiovisive originali, cerchiamo una commistione tra i diversi linguaggi artistici e i diversi mezzi di comunicazione. Come si articolano gli eventi online? I film sono visibili a tempo, occorre accedere e registrarsi con una semplice procedura che viene indicata via via sotto i film. Dipende dai titoli, stanno online minimo 48 ore fino a un massimo di una settimana. Gli interventi invece degli ospiti e degli autori, le interviste, le presentazioni di libri sono online dal momento in cui escono e rimangono per sempre. Quindi è possibile rivedersi tutti gli interventi e tutti i contenuti anche delle lettere precedenti a quella di oggi per molto tempo ancora, insomma. Ci dai tutti i riferimenti in chiusura? Abbecedario del Reale lo trovate sul sito lefornace.org, potete seguire gli aggiornamenti sulle nostre pagine Facebook e Instagram MACMA e Le Fornaci Auditorium, che è la nostra casa, diciamo, la struttura che solitamente ci ospita, e per ogni richiesta di informazione trovate tutti i contatti oppure potete scrivere a info@macma.it. Il Festival Abbecedario del Reale, online dal 28 novembre 2020 al 16 gennaio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Olimpia Bonecchi, dell'associazione MACMA. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie mille, a presto, ciao. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.